America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. But the simple fact is, excuse me. One second. No. I didn't want to get Donald, you cannot take more energy tonight. Beh, vi ho fatto ascoltare uno scambio del dibattito di ieri notte fra i candidati repubblicani alla Casa Bianca, un dibattito vivace, un dibattito lunghissimo di oltre 3 ore, caratterizzato da attacchi continui di tutti nei confronti di Trump. Trump, che è riuscito ad avere il 39% delle preferenze dell'elettorato repubblicano e che ha, come dire, spiazzato tutti gli altri concorrenti, per cui l'unica soluzione era quella di ripartire all'attacco. Questo scambio che vi ho fatto sentire era fra Jeb Bush e Donald Trump, in cui si vede come Bush cerca di bloccare, di intervenire su Trump, e Trump alla fine gli dice: beh, vedo un po' più di energia questa sera, caro Jeb. Perché? Beh, perché fino a qualche tempo fa Trump continuava a ripetere che Bush faceva addormentare il suo pubblico. Ecco, devo dire che in effetti Trump un po' se l'è cercata, perché ha insultato un po' tutti e lo ha fatto fuori dalle regole canoniche della politica americana, del politically correctness, ed è stato proprio questo il suo punto di forza. Sentiamo alcuni degli attacchi di Trump. And then I watch this idiot Lindsey Graham on television. He's a jackass. And he calls me a jackass. He's a jackass. Ecco, qui c'è Lindsey Graham che dice: Trump è un asino. E Trump risponde: quell'idiota di Graham. E quindi fa un'escalation, ovviamente, nella corsa agli insulti. Chi è Lindsey Graham? Beh, è un importante senatore repubblicano, uno dei più influenti senatori, che anche lui si è candidato alla corsa per la presidenza degli Stati Uniti. È un uomo di Stato nel vero senso della parola, e quindi il fatto che questo personaggio del Senato si trovi a dire quello è un asino e quell'altro gli risponde sei un idiota, beh, dà anche un po' l'idea di come questo dibattito repubblicano sta andando avanti. Ma gli attacchi più feroci Trump li ha fatti contro Bush, e Bush dice: ma il linguaggio di Trump è divisivo e sgradevole, però non contrattacca davvero, mentre invece Trump dice, parlando di Bush, cioè sta già barcollando, io proprio quest'uomo proprio non lo capisco, inciampa come se fosse uno stupido, cosa dovremmo aspettarci quando le cose si faranno più complicate, quando dovrebbe essere alla Casa Bianca? Onestamente non mi sembra che questa sia un'ipotesi felice, l'idea di considerarlo per la Casa Bianca. Dopodiché Trump ha attaccato Rick Perry, dicendo, Rick Perry era il governatore del Texas, dicendo che dovrebbe fare un test per il quoziente di intelligenza prima di salire sul podio del dibattito. Di Marco Rubio dice che è stato altamente sopravvalutato, e poi, come dire, la battuta più infelice, quella più recente, l'ha fatta contro Carli Fiorina. Carli Fiorina, ve lo ricordo, è stato amministratore delegato della Hewlett Packard, è stata una delle più grandi manager della Silicon Valley, e ha cominciato poi a fare politica negli ultimi anni e ha fatto molto bene, devo dire, negli ultimi dibattiti. Ebbene, che cosa ha detto Donald Trump di Carli Fiorina? Ha detto: ma guardate che faccia che ha, io proprio non posso immaginare come la gente possa votarla per la Casa Bianca. Come dire, Carli Fiorina è brutta. Ecco, questa cosa di nuovo ha scatenato mille polemiche, però finora Donald Trump è riuscito a cavarsela. Per questo gli attacchi. Partiamo però proprio dalla risposta, dallo scambio con Carli Fiorina. I think women all over this country heard very clearly what Mr. Trump said. Fiorina risponde gelida alle parole di Trump e dice: credo che tutte le donne di questo paese abbiano ascoltato chiaramente quello che ha detto Trump. E a quel punto c'è stato un applauso fragoroso, devo dire è stato l'applauso più forte di tutto il dibattito. Chiaramente Trump si è sentito in difficoltà e sul piano personale ha detto: ma no, dice, io credo che lei abbia un viso bellissimo, è una donna bellissima, io amo tutte le donne, mi prendo cura di loro, dice Trump. E Fiorina è rimasta in silenzio, gelida, senza neanche guardarla. A quel punto Trump ha cercato di attaccarla per il suo operato come amministratore delegato di Hewlett Packard, era stata licenziata, dice Trump, dalla Hewlett Packard, e lei risponde: io ho guidato quell'azienda in tempi molto difficili, mi sono fatta molti nemici per aver voluto cambiare lo status quo. Ci sono riuscita, ma anche per questo sono stata licenziata. Ecco, la verità è che la fiorina di fatto si è imposta su Donald Trump, è stata l'unica, era tra l'altro lo scontro più atteso questo fra Trump e fiorina, è stata l'unica che è riuscita davvero a metterlo in difficoltà. C'è stato poi lo scontro naturalmente forte con Bush. Sentiamo. You're proud of your family just as I am. Correct. To subject my wife into the middle of a raucous political conversation was completely inappropriate. And I hope you apologize for that, Donald. Well, I have to tell you, I hear phenomenal things. I hear your wife is a lovely woman. She is. I don't fantastic. Know her. And this she is absolutely the love of my life, of and she's right here. And why don't Good. You apologize Good. For her? No, I won't right do that now. Because I said nothing yeah. wrong, but I do hear so she's a lovely woman. Ecco, Bush interviene qui sulla questione dell'immigrazione e dice che Donald Trump dovrebbe scusarsi con sua moglie, perché la moglie di Bush è messicana. È messicana, si sono sposati, naturalmente naturalizzata americana, per cui americana al 100%, ma di fatto Bush attacca Trump perché? Beh, perché Trump in un'intervista televisiva qualche giorno fa aveva detto che Jeb Bush era, come dire, debole sul terreno dell'immigrazione, dove, come sapete, Trump propone di raccogliere tutti e 12 milioni di immigrati legali americani e di rispedirli direttamente in Messico. Ebbene, Trump diceva che era debole perché è sposato a una messicana e dunque è la moglie che lo influenza e non le ragioni di Stato. Ecco, su questa cosa, come avete sentito, Bush ha reagito duramente. Trump ha rifiutato di chiedere scusa alla moglie, dicendo che in realtà lui non aveva detto nulla di male. Ecco, si è parlato anche di questioni di sostanza, però devo dire che il dibattito repubblicano continua ad essere caratterizzato soprattutto da questi attacchi personali e, come ha detto Rand Paul, da un atteggiamento soprattutto da parte di Trump, così, di attacchi un po' da liceo, da scuola media superiore, non da persone che si propongono per guidare la nazione guida dell'Occidente, come ama definirsi l'America, in uno dei momenti storici più delicati, tra l'altro, sia dal punto di vista geopolitico che da quello economico. Everybody, it's very high energy, Donald. Mr. Trump? Humble. Una chiusa con un momento, come dire, leggero. A un certo punto l'intervistatrice chiede: ma come vorreste farvi chiamare se sarete eletti presidenti in codice dal servizio segreto? Allora Jeb Bush risponde: ever ready, sempre pronto. E poi aggiunge: beh, è un nome molto energico, è vero o no, Donald? E a quel punto c'è stato l'unico momento, come dire, di simpatia fra i due, perché hanno fatto il cosiddetto high five, cioè si sono dati il 5, e beh, soprattutto perché Donald Trump ha risposto a sua volta dicendo: beh, il mio nome in codice sarà humble, cioè umile, che, come sappiamo, è l'ultima cosa che può caratterizzare questo personaggio che ha comunque movimentato enormemente la corsa per la nomination repubblicana alla Casa Bianca del 2016. Domani parleremo di tassi di interesse, oggi la decisione della Fed, ma ancora ovviamente non abbiamo notizie. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli da America24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, mi sembra molto appropriata, di Marvin Gaye, What's Going On? Cioè, che succede? Che succede sia in campo repubblicano, ma soprattutto che succederà più tardi, quando la Fed deciderà se aumenta o no i tassi di interesse. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!